Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo un giro. Buongiorno da Nicoletta, siete pronti? Siete attenti? Concentrati? Ascoltate. Casa. Terra. Felce. Sostanza. Felicità. Carrozza. Curare. Libro. Dono. Quali sono le parole pronunciate dalla voce femminile? Magari non eravate proprio attenti. Seconda possibilità. Casa. Terra. Felce. Sostanza. Felicità. Carrozza. Curare. Libro. Dono. Chiamateci 800 24 00 24, un numero verde che oggi potete utilizzare per avere consigli, per migliorare e potenziare la vostra attenzione, la vostra concentrazione e per allenare la vostra memoria. Potete anche in diretta sottoporvi ad un breve test. Intanto saluto il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, bentrovata. E qua in studio con me la dottoressa Sara Bottiroli, ricercatrice al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pavia e autrice, insieme alla dottoressa Elena Cavallini, di 101 modi per allenare la memoria, un libro ricco di consigli e di tecniche per mantenere la nostra memoria allenata, nutrita ed efficiente. Newton Compton Editore, abbiamo 3 copie del libro che raggiungeranno 3 di voi. 800 24 00 24. Dottoressa Bottiroli. Buongiorno a tutti intanto. Chi legge un libro sulla memoria spera di trovarvi il segreto per diventare molto molto bravo nel ricordare, ma come lei spiega non esiste una formula magica che ci rende infallibili. Non esiste la tecnica migliore. C'è invece una serie di accorgimenti e strategie che, a seconda delle informazioni che devono essere memorizzate, delle capacità di ognuno di noi e della situazione di apprendimento in cui ci si trova, possono essere efficacemente impiegate per incrementare, o meglio, potenziare, il ricordo. La scelta della modalità più appropriata per memorizzare dipende da chi deve apprendere, da che cosa deve essere trattenuto, per quanto tempo deve durare il ricordo. Tratto da 101 modi per allenare la memoria. Dottoressa Bottiroli, quindi noi teniamo a mente queste 3 parole. Chi siete? Che cosa dovete memorizzare? Per quanto tempo deve durare il ricordo? Esatto, infatti come ha detto lei all'inizio non esiste una formula universale, ma ciascuno ha le proprie capacità, quindi c'è chi è più capace di memorizzare un certo tipo di materiale, chi è più facilitato con altre tipologie di compiti, anche il materiale stesso, materiale verbale versus materiale visivo, e anche appunto la qualità del ricordo, quindi per quanto tempo dobbiamo mantenere le informazioni. Tutto questo determinerà poi il tipo di strategia che dovremo utilizzare. Professor Barbanti, che cosa serve d'altro? Io ho detto chi siete, che cosa dovete memorizzare, per quanto tempo deve durare il ricordo. Cosa possiamo aggiungere? Ma serve intanto una buona genetica e anche una buona salute, questo può sembrare scontato. Vorrei però dire, servirebbe anche un po' di interesse, perché noi parliamo sempre di una memoria intesa come esercizio volontario. C'è anche però una memoria incidentale, cioè noi ci ricordiamo cose che non volevamo vedere o che non necessariamente erano nel cono della nostra attenzione, sono i fini osservatori. E poi vorrei un po' stimolare chi ci sta sentendo su una questione che è un po' strana, cioè noi abbiamo la memoria che ci troviamo, insomma, però raramente corrisponde a quella che vorremmo avere. Ora io vorrei focalizzare anche sulle cose che dalla memoria non vanno via, e quindi bisognerebbe parlare in realtà di memoria non solo come aumentare le possibilità di depositare i dati, cioè di fotografare meglio e sempre più in maniera dettagliata l'informazione, ma in alcuni casi, pensiamo alle brutte esperienze, pensiamo alle brutte emozioni, Se mai ci fosse la maniera di trascinare nel cestino del nostro computer queste informazioni? La risposta è no, non si può fare, ma chissà che qualche ascoltatore ci racconti la sua per speculare un po' sull'argomento. Grazie professor Barbanti, e mi sembra che l'invito fatto ai nostri ascoltatori sia molto stimolante, ma noi torniamo alla memoria, quella che vorremmo avere. Se dovessimo rappresentarla graficamente, noi tracceremo una linea che sale in corrispondenza dei primi anni di vita e poi scende gradualmente. Tutti infatti hanno la percezione che col passare degli anni la memoria giochi più facilmente qualche scherzo. Da che cosa dipende? O se vogliamo metterla in positivo, come si fa a mantenere una buona memoria? Beh, intanto quello che gli studi hanno dimostrato è che la nostra cosiddetta riserva cognitiva, cioè i soldi che abbiamo da parte, in questo caso la memoria che ci può assistere, dipende da quello che abbiamo fatto da giovani in buona parte, e cioè dall'attività fisica, l'attività culturale e dal tipo di alimentazione. Questo, anche se in maniera singolare, sembra essere il principale bagaglio che noi ci portiamo dietro poi nel corso del tempo. Questo perché memoria vuol dire collegarsi, e collegarsi a cellule sempre diverse. Ogni cellula nervosa nostra ha rapporti variabili con circa altre 10.000 cellule nervose. Non solo, alcune cellule possono attivarsi, alcune possono moltiplicarsi. Insomma, per fare tutto questo, essere esposti nel periodo critico della nostra vita ad una vita stile college per certi versi, quindi con un'alimentazione però non americana, magari mediterranea, è un buon elisir. Questo perché poi il processo di memorizzazione, lo stipare nel profondo della memoria i nostri dati, è un fenomeno molto complesso che richiede sintesi di proteine, e quindi scalpellare bene un ricordo non è fenomeno così semplice, ed è richiesto, oltre alle tecniche, oltre all'interesse, oltre ad una condizione affettiva favorevole, è richiesto un organismo che funzioni veramente bene, un organismo sano e ben forgiato. Dottoressa Bottirolo, sì. Voi fate proprio dei corsi, esatto, per allenare, per mantenere la memoria. Esatto, io infatti aggiungerei a quanto detto dal professor Barbanti che conta anche quello che facciamo durante la nostra vecchiaia, ossia se pensiamo a due individui in pensione, uno che trascorre le giornate, per dire, davanti alla televisione, l'altro invece che si mantiene mentalmente attivo, chiaramente il corso del loro invecchiamento sarà diverso. Quindi tutto questo, essere attivi, proprio quello che vogliamo promuovere è essere attivi per avere un invecchiamento di successo. Quindi questa è un po' la nuova visione che si sta andando a diffondere relativamente all'invecchiamento, quindi non più declino inevitabile, ma comunque possibile lavorare per mantenersi. Sergio ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Sergio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo pronti? Sergio? Io sento malissimo. Vogliamo richiamare Sergio? Lo chiamiamo e poi lo richiamiamo. Intanto il numero per mettersi in contatto con noi è 800 24 00 24. Dottoressa Bottiroli, come lei insegna nel suo libro, noi pensiamo sempre alla nostra memoria come se funzionasse meno di quello che in realtà è. Insomma, la sottovalutiamo. Ma questo atteggiamento a lungo andare può essere pericoloso, perché rischia di farci entrare in un circolo vizioso, e quindi ci porterebbe ad evitare tutte quelle situazioni in cui invece possiamo apprendere e memorizzare nuove informazioni. Insomma, rischiamo di, esatto, tenere un po' la nostra memoria in panchina. Esatto, infatti c'è questa tendenza, soprattutto nell'invecchiamento, torniamo a riparlare dell'invecchiamento, c'è questa tendenza a sottovalutarsi. Per esempio, mi riallaccio al discorso delle persone in età avanzata, che si tende a pensare che essere anziani vuol dire inevitabilmente non essere in grado di ricordare, e invece è importante avere un atteggiamento positivo verso le proprie capacità amnestiche, perché proprio il fatto di non credere in se stessi innesca una catena negativa, per cui non ci si impegnerà in quello che si fa, non si usano le strategie migliori, e quindi si fa proprio una profezia autoavverante, quindi si declina nella memoria e così via, e quindi tanto più ci si sottovaluta. Professor Barbanti, noi sappiamo che però ci sono delle persone che sono più verbalizzatori e altri che sono visualizzatori. Alcune parole, ad esempio, alcune persone riescono a fotografare meglio le immagini e a mantenerle nella memoria, quindi le immagini le riattivano, altre invece giocano di più sulle parole. Da che cosa dipende questa differenza? Ma dipende in parte da, come diceva la dottoressa, da alcune doti, da alcune caratteristiche personali, in parte dipende anche dall'età. Pensiamo un bambino, penso a mio figlio, ma tanti altri lo facevano, insomma, che non sapendo leggere ricordava però a memoria le battute della favola che veniva letta. In questo caso si attivava sostanzialmente una memoria di tipo uditivo verbale, non di tipo visivo. Viceversa penso invece a un artista che tramite la rievocazione visiva, viva di rievocazioni e di immagini, sfrutti quel canale meglio di altri. Certamente la integrazione delle due modalità consente ai soggetti di avere le forme migliori di memoria, però ecco, cercherei sempre di far riflettere su questo aspetto. La memoria noi la vediamo come un compito, no? La memoria per studiare. In realtà la memoria è un qualcosa di molto più ampio, di molto più affascinante, che richiede interesse, attenzione. È una congiunzione astrale favorevole di interesse, salute, attenzione, tecniche, come diceva giustamente la collega, situazioni non abbandoniche, però insomma un singolo Lisir non lo inventeranno mai. Sergio ci chiama da Napoli, 800 24 00 24. Sergio. Salve. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Volevo rispondere al quiz. Sì, la voce femminile, quali parole pronunciava? Sì. Bene, allora è stato attento? Diciamo sì, in seconda battuta. Però in seconda battuta. Prima, dato che sono al lavoro, stavo prendendo. Vi seguo ogni giorno, quindi. Bravo, in Sergio. Seconda battuta. Allora, quali sono, Sergio? Dovrebbero essere terra, sì. Sostanza, sì. Carrozza, sì. E libro, forse. Bravo, Sergio! Allora, Sergio, 101 modi per allenare la memoria. Che tipo di capacità ha sfruttato Sergio, dottoressa Bottiroli? Riceverà a casa il libro, ce ne sono altri due, ma vi alleneremo nel corso della trasmissione, quindi state pronti. Chiaramente all'inizio non avrà, come tutti penso, non avrà prestato attenzione alle parole che sono state lette non aspettandosi il tipo di compito. Successivamente avrà prestato attenzione alla caratteristica fonologica, ossia al suono delle parole, e quindi a una caratteristica più superficiale, chi leggeva le parole, ecco. Abbiamo Marina, ci chiama da Milano. Benvenuta Marina. Buongiorno. Buongiorno Marina. Io ho un grosso problema. Eccoci. Quando mi presento, buongiorno, sono Marina, la persona che ho di fronte mi dice il suo nome. Dopo 3 nanosecondi io non so più come si chiama. Leggo un libro, dico, leggi questo libro, è bellissimo, dimmi il titolo, non lo so. I film, e mi creo veramente un sacco di problemi, perché non ho memoria. Poi se leggo questo libro ti posso dire, che ti consiglio, ti posso dire dalla prima all'ultima pagina cosa racconta. Però non viene il titolo né l'autore, ad esempio. Niente, io soprattutto con le persone che conosco seduta istante, buongiorno, sono Marina Rutta. Senta, senta signora, cara Marina, ma se le presentassero Brad Pitt, uno bello come Brad Pitt, io sono sicura che lei si ricorderebbe nome, cognome, guarderebbe i dettagli. Professor Barbanti, che dice? Saprebbe anche il codice fiscale probabilmente. No, in realtà è quello che dice Marina, richiederebbe due domande. La prima è, si emoziona? E poi la seconda, va in genere di corsa? Perché è chiaro che ciò che lei suggerisce è che si tratti di un fenomeno di interferenza rappresentato sostanzialmente dall'emotività o dall'ansia. Personalmente neanche io ricordo mai i nomi, devo fare un po' di appelli dopo che mi presentano le persone, però il fatto che anche nel film, nel libro, faccia fatica poi a ricordare, verosimilmente può essere legato alle condizioni che genericamente vanno nel capitolo dello stress, quindi un maggiore uso della rilassatezza, se si riesce a farlo nella vita di tutti i giorni, potrebbe essere un buon consiglio. Non ha, così come dice lei, le caratteristiche del disturbo di memoria sospetto o pericoloso. Quindi su questo tranquillizziamo Marina, ma la dottoressa Bottiroli magari io aggiungerei una piccola strategia, un piccolo trucco. Sì, no, per quanto riguarda i nomi, penso che sia proprio anche un discorso di mancanza d'attenzione, quindi punto essenziale per partire è quello di prestare attenzione nel momento in cui viene presentata una persona. Magari capita di soffermarsi su com'è vestita, insomma pensare ad altre cose in quel momento e perdere il nome, quindi farselo ripetere. Però sul titolo dei libri è un'altra cosa, film, io penso, eccetera, come il professore appunto, che sia un discorso forse di stress, di mancanza di concentrazione. Distinguerei le due cose, la difficoltà per i nomi, che è qualcosa di immediato, piuttosto che il nome, che invece è un'informazione che è più disponibile, il nome del libro che è più disponibile. Ecco. Io sono molto contenta perché in linea abbiamo due ascoltatrici, Bea da Roma e Maria dalla provincia di Chieti. Bea, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Salve Nicoletta. Buongiorno Bea, buongiorno. Benvenuta. Dunque, io ho già il mio nome problema. Se lo ricorda Bea, quindi già, sì, già qua siamo a posto. Dunque, il fatto è questo, io ho dunque due problemi. Il primo è come quello di Marina, mi capita appunto di non ricordare, per esempio incontro una persona, poi dopo 10 minuti ho un ricordo confuso se l'ho incontrato o meno. E questo mi ha creato dei problemi. Un altro problema, io per esempio, non so, ho delle memorie che non riesco proprio a cancellare, cioè per esempio dei numeri di telefono che facevo 30 anni fa, 25 anni fa, molto frequentemente, di cui non riesco più a cancellare la memoria, ricordo perfettamente proprio. E quindi è... Veramente penso che ha ragione il dottore quando dice che credo che sia legato anche un po' alle emozioni, al modo come uno vive i momenti in cui fa delle pratiche per ricordare le cose, penso. Professor Barbanti, pensa bene? Ma direi di sì, e vorrei chiedere alla signora Bea se quei numeri avevano anche un valore simbolico, perché le memorie, se escludiamo i casi in cui c'è veramente una memoria parassitaria, e questo è quello che succede per esempio nei disturbi ossessivi in cui rimangono in memoria dubbi, domande, immagini e così via, le cose che non vanno via dalla memoria solitamente sono come i molari, hanno almeno 3 radici, volendo fare un paragone con i denti, e cioè rievocano interi periodi della vita emozionalmente carichi, e ci pensa a fare la finitura del pezzo l'amigdala, che è una parte del nostro cervello che media tante sensazioni legate all'emotività, non sempre favorevoli, anzi spesso di tipo sfavorevole, ma che dà una sorta di così, di imperitura, verniciatura al ricordo. Certo è singolare, mai sentito un caso di numeri di telefono che però una volta, occorre dire la verità, erano 6 cifre, perché fossero quelle 8 cifre bisognerebbe complimentarsi con la signora Bea. Maria. Ogni cifra in più crea problemi molto grossi a ricordare. Maria dalla provincia di Chieti, poi la dottoressa Bottirolli magari ci darà un trucchetto per memorizzare i numeri che noi solitamente appuntiamo. Maria, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, io riesco a portare una persona dopo 30 anni in una località, un posto, un albergo, ricordo la strada perfettamente, anche se in un'altra nazione, voglio dire. Però non ricordo mai, faccio delle figuracce bestiali, il mio numero di telefonino. Devo far sempre finta che ho appena cambiato la scheda e vado a guardare sul telefonino. Però vede che hai sempre. O comunque il nome e i visi delle mamme, per esempio, degli amichetti dei miei figli. Anche dopo 5 anni di scuola non ho imparato ancora quali sono le mamme. Faccio delle figure bestiali e nemmeno i nomi. Ecco. Né visi né nomi. Vogliamo un consiglio pratico per salvarci, allora, da queste situazioni di imbarazzo. Sì. Allora, quindi adesso vi spiego quella che viene detta la mnemotecnica per i nomi e per i volti. Quindi, primo punto, prestare attenzione, l'abbiamo, chiaramente ce l'abbiamo nel momento in cui viene detto il nome. Poi è necessario soffermarsi sul volto in modo tale da cogliere una caratteristica che sia distintiva del volto. Quindi gli qualcosa, occhi, il naso, esatto, il rossetto magari che non è dato bene. No, perché noi, generalmente dovrebbe essere una, diciamo, una caratteristica stabile. Ah. Quindi, perché se fosse il rossetto, una persona ce l'ha in quel dato momento, ma la volta dopo si perde. Quindi è qualcosa di stabile. L'orecchia sventa. Esatto. Poi soffermarsi sul cognome della persona. Quindi cercare, fondamentale, di dare un significato al cognome della persona. Ci sono cognomi che come Cavallini, che hanno un significato da subito, quindi è semplice associare adesso un significato. Ci sono poi cognomi come per esempio il mio, Bottiroli, che non è che rimanda subito a un concetto, quindi bisogna un po' lavorarci sopra, magari scomporlo, giocare con le parole in modo tale da attribuirgli un significato. Quindi Bottiroli, botte. Esatto. E poi a quel punto legare le due informazioni, per esempio il mio Bottiroli, io sono Magrolina, uno potrebbe pensare che c'è, associando le due informazioni, che c'è un contrasto tra il mio cognome e il mio aspetto fisico. Quindi questo è il gioco, trovare la caratteristica e legarla al significato dato e al cognome. E Carbone con me? Carbone potrebbe essere che hai capelli scuri o gli occhi particolarmente scuri. Trovare quindi Carbone nero. Nero, ok, bene, così me lo ricordo. Ecco, 800 24 00 24. Dobbiamo andare a sentire, e lo facciamo con piacere, i mercati, poi il meteo e poi di nuovo qui, perché dobbiamo allenare la nostra memoria, capire che cosa succede, provare anche, come invitava il professor Barbanti, a vedere se riusciamo a cancellare quei ricordi di cui vorremmo farne a meno ma che riaffiorano, e imparare a ricordare anche le cose belle, quelle utili, quelle che ci servono per vivere bene. 800 24 00 24, voilà, noi andiamo e torniamo presto. Essere e benessere. Buongiorno, si può prendermi? Buongiorno. Sì, ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ah sì, sì, Mirella, certo, scusa, scusami. Ma ti ricordi quella cosa che mi avevi detto tu? Che bisognava sempre cercare il mistero. Quella cosa che dicevi tu. Dicevo così, non mi ricordo. Professor Barbanti, lui non mi sembrava molto interessato, perché se si dimentica il nome, anzi lo sbaglia, che dice? Mi dia una risposta da uomo più che da un neurologo. Direi che una Maria bellissima la si ricorda con facilità, anche se il nome è più diffuso in Italia apparentemente. Il problema del ricordare il nome è un capitolo a parte, tant'è vero che quando arrivano pazienti un po' preoccupati del fatto di scambiare il nome dei figli, noi tendiamo a tranquillizzarli, in quanto il problema della afasia nominum, in questo caso forse afasia nominum non è un reato da molto tempo depenalizzato, cioè è una situazione che vede alcuni elementi di oggettiva difficoltà, cioè la velocità nella che è richiesta per rievocare il nome. Il fatto che lo stesso nome sia condiviso da molte persone, e tra l'altro alle assonanze, pensiamo solo le Sabrine e le Sabine, per non dire Carlotta o Caroline, insomma, o Camille, quindi è obiettivamente un qualcosa di difficile, che non vuol dire probabilmente che esiste un sottostante disturbo organico di memoria. Nello sketch forse voleva dire qualche altra cosa, allora in quel caso il valore sentimentale dell'errore più importante di quello neurologico. Allora, intanto avete sentito il dialogo, attiviamo la memoria a lungo termine, datemi il titolo del film. È un film del 2003, 800 24 00 24. Il primo ascoltatore che ci chiamerà con il titolo esatto riceverà a casa 101 modi per allenare la memoria. E poi nel corso della trasmissione avremo un'altra domanda per voi, quindi tra l'altro, professor Barbanti, recuperare attraverso il dialogo il titolo di un film, che tipo di memoria attiva? Ma in realtà in quel momento noi stiamo attivando una memoria a lungo termine, senza dubbio, esplicita, dichiarativa, e certamente di tipo visivo, perché poi se l'ascolto è un trigger, un elemento scatenante puramente uditivo, in realtà ciò che poi esce fuori è la rappresentazione iconografica nella nostra mente della scena del film. La classificazione della memoria è abbastanza stucchevole quando la si dice dichiarativa, esplicita, a lungo termine e così via, però un solo spunto vorrei dare agli ascoltatori: noi abbiamo anche delle memorie brevissime, ultra brevi, chiamate memorie di lavoro. Sono quelle che quando abbiamo bevuto un po' non ci assistono più, ma basta bere molto poco. Quello che consente a me di ricordare per 10 secondi una sequenza di numeri, un numero telefonico, una data di nascita che lei mi sta dicendo, mentre magari sono allo sportello e devo compilare un modulo. E poi un'altra cosa importante, la memoria a breve termine, che è per esempio quella che miracolosamente ci fa ricordare, ecco, vorrei dire a chi ci ascolta, ma vi siete mai chiesti il prodigio per il quale ricordiamo la chiave del nostro albergo, il numero di stanza? Quello è un esempio di memoria a breve termine, poi non lo sapremo mai nemmeno in che piano siamo stati. È vero. Ebbene, la memoria a breve termine, varie volte ripassata, viene poi compartimentalizzata nella memoria a lungo termine, quindi stoccata ed ecco quindi la necessità del ripasso, questo anche per gli studenti. Allora, dottoressa Bottiroli, facciamo un po' di allenamento? Sì. Ci ha già dato un trucchetto per abbinare visi e cognomi, e questo mi è piaciuto molto anche agli ascoltatori che mi promettono di utilizzarlo al momento buono. Che quale altro trucchetto ci dà? Allora, vediamo i numeri a cui faceva riferimento ad esempio il professor Barbanti. Allora, i numeri diciamo che è un tipo di informazione sul quale tutti hanno delle difficoltà, perché è difficile così a pensarci trovare una strategia in modo automatico che possa essere utilizzata. Quello che può essere utilizzato è il fatto di la cosa più semplice è associare chiaramente un numero a dei numeri che sono ricorrenti nella nostra vita, quindi per esempio scomporre un numero di telefono individuando nelle varie coppie che lo compongono delle cifre che sono per esempio la nostra età piuttosto che l'età dei nostri figli, quindi giocare in questo modo in casa, esatto, in modo tale da dare un significato all'informazione. Quindi il concetto del significato all'informazione è fondamentale. Altra cosa può essere quella per esempio di associare una lettera a ogni numero, quindi partendo da 1, 2, 3 fare A, B, C, e quindi per ogni numero creare una parola o una frase prendendo le iniziali, e tenendo a mente questa si può facilmente recuperare quella che era l'informazione. Ecco, esercitarci, perché professor Barbanti adesso col fatto che noi abbiamo il cellulare, memorizziamo, esatto, tutti i numeri. Io ad esempio non so ancora il numero della targa della mia macchina, adesso quando vado la guardo e cerco, però so a memoria il mio codice fiscale. Professor Barbanti, ma la tecnologia ci aiuta o non ci aiuta? No, la tecnologia inevitabilmente ci facilita. Quello a cui noi stiamo assistendo è che la memoria procedurale, cioè la memoria del come si fa, sta migliorando, perché sappiamo fare più cose. Prima sapevamo andare in bicicletta e aprire la porta di casa, poi abbiamo imparato a guidare la macchina, aprire il computer, usare il palmare, lo smartphone, le tavolette elettroniche dal nome impronunciabile, però stiamo ovviamente perdendo le memorie dei fatti, le memorie esplicite, perché la maggior parte di queste informazioni ci vengono servite su un vassoio d'argento a schiacciare un tasto. Quindi la memoria in realtà non la stiamo perdendo, la stiamo sviluppando un'altra parte, la memoria del come si fa. Siamo sempre più bravi a gestire strumenti variabilmente considerabili come elettronici. Certo, non è una buona abitudine. Franca, dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto complimenti tanti, siete sempre molto, molto validi nella vostra trasmissione. Grazie. Niente, io volevo, probabilmente una cosa abbastanza banale, volevo chiedere, visto che io purtroppo ho perso mio marito, io non ricordo mio marito ammalato, cioè ho cancellato dalla mia memoria l'immagine sua ammalata, lo ricordo sano. Questo è una cosa, diciamo che positiva, abbiamo cancellato le cose, certo, tutte. Questa è una domanda, volevo chiedere se è una cosa che capita spesso. E poi volevo chiedere, nel caso di aver perduto la memoria con un trauma in seguito a problemi così di origine neurologica, la memoria si può recuperare, cioè lavorando sulla memoria c'è un recupero o è solamente, bisogna solo lavorare sulle strategie? Grazie Franca, bella domanda. Professor Barbanti. Sì, molto rapidamente, il non ricordare le fasi degli ultimi periodi della vita del marito è un chiaro esempio di rimozione, cioè evidentemente la signora avrà il ricordo, perché è un ricordo doloroso, ma è un ricordo che grazie anche evidentemente ad una personalità particolare, in questo caso molto, molto utile è stato il suo lavoro, forse involontario, inconsapevole, psicologico, l'ha messa in un cantuccio. Esistono addirittura condizioni acute, sono gli stati crepuscolari, in cui il soggetto non ricorda assolutamente nulla, neanche di quello che fa, si incammina e non sa dove è andato. Per quanto riguarda la domanda trauma e il danno, se noi parliamo dell'amnesia lacunare, cioè dell'amnesia relativa, cosiddetta retroanterograda, relativa al trauma, per cui non ricordi come sei andato a sbattere e che cosa è successo nei minuti successivi, quello è un fenomeno che si autolimita, dopo la memoria ritorna. Se parliamo invece delle gravi amnesie post-traumatiche, beh, lì la situazione è un pochino più complessa e occorre fare due cose. Sicuramente ricorrere ai farmaci, i farmaci che agiscono su settori vari, su vari neurotrasmettitori, del glutammato, l'acetilcolina, ma anche riabilitare. La riabilitazione della memoria funziona e deve essere fatta in centri e con personale qualificato. significa? Un po' come si fa quella dopo la riabilitazione, dopo un intervento chirurgico per una protesi o per rimettere in piedi la muscolatura e le articolazioni. Essere e benessere. E siamo tornati, abbiamo in linea con noi Benedetta, ci chiama da Milano. Buongiorno Benedetta. Buongiorno a voi. Siamo pronti. Lei vuole fare una domanda, ha ascoltato il dialogo e quindi ha il titolo del film? Io ho ascoltato il dialogo e il titolo del film, che è La meglio gioventù. Brava Benedetta! 101 modi per allenare la memoria, arriverà a casa di Benedetta da Milano, che ha dato la risposta corretta, e io volo da Mauro, che ci chiama da Udine. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno signora Nicoletta, e grazie di esistere a lei e ai tutti ospiti. Grazie Mauro, ci racconti. Prego. Io ho un problema, ma è da ridere. Insomma, io mi sono iscritto con la mia dolcissima moglie a un corso di ballo country e andiamo una volta a settimana. Quello che io imparo il mercoledì dopo me lo sono già accordato. Ma come posso fare? Sì, devi allenarsi tutti i giorni, Mauro. Cosa che dicevo anche a mio marito, che poi invece non è più venuto a ballare, perché lui ha sfruttato quella sua stessa scusa, dicendo io non mi ricordo da una settimana all'altra, e poi vabbè, non siamo più andati a ballare. Ma io non voglio smettere. Ecco, infatti, bravo Mauro. Allora, dottoressa Bottironi. Ma io indagherei anche sulla motivazione che lei ha rispetto a questo corso di ballo. Magari la sua dolce metà la sta spingendo a partecipare, quindi non deriva da lei l'interesse e la volontà di partecipare, e quindi insomma determina un po' una dimenticanza di quanto ha preso. Però volendo allenare la parte, cioè i passi, lui che cosa deve fare? Tanta pratica, esatto. Tanta pratica, Mauro, ad esempio oggi, provi a fare i passi, poi mi scrive, vedrà che diventa un ballerino provetto, le chiederemo poi di portarci a ballare. Grazie a Mauro, in linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, autore di Mangia che ti passa e anche un consulente del nostro Daily Lab. Dottor Ongaro, sicuramente quello che mangiamo, come ha anticipato il professor Barbanti, ha un ruolo importante, anche perché per memorizzare bisogna stare bene, nutrirsi bene. Le nostre nonne dicevano mangia bene che devi studiare, sennò come fai a ricordarti? E ci prendevano come sempre, dottore. Beh sì, diciamo che ci prendevano, anche se secondo me ci sono un po' di luoghi comuni da sfatare su quello che necessita il cervello per funzionare bene. C'è la famosa credenza che il cervello ha bisogno di zucchero. Certo, il cervello ha bisogno di zucchero, ma il corpo si procura quello zucchero che serve al cervello senza che noi necessariamente dobbiamo riempirci di zucchero da tavola o di dolci. Quindi io sottolineo che anche per la prestazione cerebrale la stabilizzazione della glicemia, e quindi il mangiare il cibo più integrale possibile, più genuino possibile, in modo da avere, da ridurre al minimo questi alti e bassi della glicemia, ai quali corrisponde ovviamente anche un alto e basso nella prestazione mentale. Questo credo che sia la chiave più semplice da descrivere, oltre poi ad altri problemi che riguardano la vita quotidiana, per esempio i livelli di stress eccetera, che ovviamente incidono anche sulla prestazione mentale e quindi anche sulla memoria. Certo, dottor Ongaro, tornando, parleremo poi rapidamente di stress, ma tornando su quello che dobbiamo mangiare, ad esempio i ragazzi che non fanno la prima colazione spesso la saltano e poi a lezione sono stanchi, ma anche noi che beviamo un caffè al volo abbiamo proprio il calo di attenzione, di forza a metà mattina, quindi cereali integrali alla mattina, una colazione completa. Cereali integrali, noci, dei cibi che siano il più possibile nutrienti. E quello che stavate dicendo adesso, cioè il fatto di saltare la colazione e poi trovarsi ovviamente qualche ora dopo con un terribile buco nello stomaco e una fame pazzesca, ci porta a mangiare la prima cosa che ci troviamo attorno. La prima cosa può essere qualcosa di dolce perché ci dà l'impressione che ci ricarichi di energia, ma non facciamo altro che amplificare questi sbalzi in alto e in basso della glicemia. Quindi anche un trucco è portarsi più spesso delle cose da casa, in ufficio, a scuola o al lavoro, in modo tale da poter scegliere quando e cosa mangiare, non dover correre alla ricerca della prima soluzione che troviamo attorno. Viviamo di corse, siamo tutti stressati, non voglio bruciarmi la puntata perché allo stress, perché a come ci può servire, perché può farci ammalare, dedicheremo un'intera puntata e anche perché abbiamo un minutino, ma vorrei una battuta dal professor Barbanti e dal dottor Ungaro. Stress e memoria, professor Barbanti. È molto semplice, lo stress è uno dei più grossi danneggiatori della memoria, si alzano i livelli del nostro cortisolo ed è dimostrato, nello stress dei depressi per esempio, che il volume dell'ippocampo, che è la centrale della memoria, riduce, le cellule nervose accorciano il loro assone, sono stipate, non muoiono, ma è come se andassero in una sorta di piccolo letargo, si stringono, passa lo stress, magari idonee terapie si riallargano. Quindi evitarlo accuratamente e attuare strategie di contrasto. Dottor Ungaro, ha una ricetta per noi? Come non essere d'accordo? Cioè, assolutamente, aggiungerei solo per dare una nozione, una piccola nozione in più, ecco, facciamo sempre la distinzione tra lo stress cronico logorante e lo stress invece che può essere anche positivo, che aumenta la concentrazione, come può essere lo stress prima di un esame, certo, o lo stress che io ho visto e vissuto per esempio con gli astronauti, che in particolari momenti riescono a apprendere moltissimo anche in una situazione in cui lo stress diventa stimolante, ma invece lo stress cronico, logorante, continuativo, non c'è ombra di dubbio che ha questo effetto di vero danneggiamento anatomico del tessuto nervoso. Allora, e in 30 secondi, dottoressa Bottiroli, ci dà un esercizietto rapido su cui misurarci oggi? Un esercizietto rapido? Allora, potrei leggervi delle... Aspettate, leggo delle parole e me le ripetete. Sì, non, ce le ripete, provate a ripetervele voi, perché noi tra poco chiudiamo. E tra l'altro vi dico che l'ultimo libro che abbiamo a disposizione, Laura Vanossi lo segnalerà al primo ascoltatore che ci ha risposto al primo quesito via SMS al 349-238-6666. A proposito di stress, non abbiamo più tempo, vi devo salutare, ma la dottoressa Bottiroli scriverà un esercizio per voi sulla nostra pagina di Facebook. Essere e benessere.